dispaccio ufficiale mi consiglio di sospendere la festa. Un attentato! Leggete!

Io salgo, e io uscito, il servo mi lascia un istante. Io vorrò il diretto, e trovo... E dice, ti attendo stasera alle 9. Hey! Oh! Diretta mia Parigi. Loris, ritorno presto. Subito, arrivederci. Yeah. contessa siete forte. Io come l'angelo. Non cadrete in delirio. Una noce sul trono. Allor senza riguardi il maestro polacco nipote successore di Chopin il poeta del pianoforte eccetera su spiegati diamanti non sarebbe un agente segreto una spia dall'imperial governo al vostro fianco messa per farvi chiacchierò fatevi cor contessa qua giù tutto finisce e tutto ricomincia non è la prima volta e l'ultima sarà l'amore Eugène di Posso se ne viene per andarsene se ne va per ritornare Posso passa So un rapimento Come? In bicicletta Bravo, ti devo leggerò con la vestire testolina sventata Principessa non son venuto qui per lei amate molto Fratello di noi sì. arma. Morto! Di colpo! Anche madre! Sua madre! Sì! Che feci? Che dite? Sono io che li uccisi! Deliziosa! Attento, mi sfida raggiunge qui! Siete così leggera! Volete 3 chilometri di vantaggio! E la costa! Faccio! Avara! Ecco qui! Non so che ando che pure ritornerò! Principessa coraggio! Ed ora addio! Valeriano!

这里是歌舞剧场，今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费朵拉》，由莫纳科·费比沃、高比·卡夫契利等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Thank you. Come? Se tu mentissi, i mediti ancora, che mi do certezza, lui stesso lo dimero. Ecco la prova, leggi. Anima mia, la sua scrittura.